aiuta a far culo, detto, ma la mano ha avuto culo, perché Paolo si è piegato e i radiali sono rimasti integri, erano a 20 cm dal tetto, e lo stilo l'ha appoggiato al tetto. Allora ho aspettato quando calmava un po' le acque, lo sai, tu sopra, in due, allora proprio il palo quello telescopico ci ho messo il palo nell'acqua. Infatti non mi sono più fidato, ha detto tu di bel palo mi hai dato, e perché non andava bene, sì, se non vedete c'è una bella piegatura di lusso, gli ho detto. Via, vai Franco, raccontaci tu qualcosa. Ecco cosa volete raccontare, sono qua seduto, viene nello greco. Il mare lo vedi? Stamattina sono sceso, un'oretta, ho fatto una passeggiata di 6 km, poi me ne sono ritornato. Va bene, dai, 6 km, è buona. Tanto per... non è solo una volta, era tutta la giornata lì, però diciamo che già va bene fare un po' di attività fisica. Lo stesso, quando ho qualche attimo libero sempre me ne esco in bicicletta, o sto dentro la città, mi faccio tutta la città, centro storico, però preferibilmente la faccio la domenica mattina o la domenica pomeriggio o il sabato sera che c'è meno traffico la città. Poi se esco durante la settimana invece mi faccio zone tipo o vado a Nulvi o vado a Osilo, capito? E mi faccio un po' di chilometri con la bicicletta, pedalata assistita. Vabbè, la pedalata assistita non è che sia tanto bella andare a pedalare senza la batteria, quella lì. No, a me piace alzarmi presto la mattina, come stamattina, mi ha chiesto per vado, mi faccio la camminata. Finita la camminata, guarda, entro al bar, mi faccio colazione e poi mi ritiro a casa. Vabbè, tu hai il mare vicino e quindi il posto ce l'hai, è sempre piacevole a scendere così, a farti la passeggiata là. Già va bene, un po' di attività fisica è sempre meglio farla. Claudio per esempio c'ha tutto quel giardino da mettere a posto, quindi ha voglia lì che ne fa, che se non cammina lui piano piano lì se si mette c'è sempre da fare. Claudio si deve ringraziare, la vedo attaccata. No, faccio tutto io, c'ho tutto io, c'ho la reserva, ok, mi sono comprato la reserva e faccio vai vieni e faccio un pochino di chilometri e poi metto a posto la reserva, quando era già soltrato me la faccio fuori, prendo il cespugliatore e inizio a pulire tutto, è già tutto pulito, volevo un'altra passatina e poi ieri mi sono comprato la forbice quella grande da portare le sciepi, sto portando le sciepi fuori, le sto facendo tutte a misura e già ne ho da fare io, sì, se ne metto a fare già ne ho da fare, è che ogni tanto mollo perché bisogna fare così. È tutto l'ingresso del cancello, stiamo aspettando la provincia che dia una pulita, non si vedeva più e quindi ce l'ho fatta io, non mi aggiudice di dare. Va bene, dai, vi chiedo permesso di correre, se ci siete ci aggiorniamo dopo, ok? Che vado, devo mettere due tirantini, mi sono dimenticato due tirantini a quell'antenna perché è un bel alta e il basamento è un po' debole perché l'ho appoggiata così provvisoria, capito? L'ho appoggiata provvisoria, allora mettiamo due tirantini di rinforzo, poi magari domani la sistemo meglio, era giusto per fare una prova. Dai, baci e abbracci a tutti e ci sentiamo, ciao! Ciao Claudio, ci sentiamo, anche io mi sto preparando, stanotte a cena fuori con la famiglia, adesso devo scendere alla Fondazione Banco di Sardegna, alle 7:30 c'è l'inaugurazione di una mostra e poi ce ne andiamo a cena lì da Montecristo dietro Via Arborea, dai. Sì, già lo so. No, io stasera sono a casa perché c'ho gente, domani sono al ghetto, a cena, oggi a casa, va bene, dai, anche lui mi affida ancora, non è manco lì. rientra, perché tipo alle 7 io uscito stamattina, è ancora al bar. Va bene, dai, ci sentiamo. Franco, a te il cambio, per me QRT, e ci aggiorniamo più tardi se c'è qualcuno. Ciao ciao. Ehi, ciao Claudio. Claudio, di quel terreno devi portare verdura, pomodori, queste cose qua, che sono genuine. Altro che antenne. Mio male di venga, oggi ci ho mandato la gaccia e tu, se oggi fatto fatto il tacimento. Parlo sicuro? Allora, io Carletto, il tacimento non ne voglio di verdura, verdura ne manco pareggio, che tu hai di zappa. La zappa è troppo bassa. Ciao Bra. Ciao ciao Claudio, avanti Carlo. Sì, fa bene Claudio, là si mette in paglietta, se ne sta al fresco e poi quando gli serve la frutta e verdura va al negozio e ne trova volontà. No, io dico una cosa, una certezza uno si prende le dovute pause, fa le cose piano piano, se proprio ti va ti pianti un po' di basilico così, di una aiuoletta di prezzemolo, giusto per avere quelle cosette lì, due vasetti eccetera, due fiori che però niente di più, poi io la penso come Claudio, quando mi servono già c'è il negozio e fai prima. Vai Antonè. Io già scendo dallo spino a spendere, c'è poco gaudia, mamma mia, il pomodoro di 1,69 centesimi, non si può più fare un accidente dallo spino, altro che spesa intelligente. Quella si chiama spesa per prendere il culo alla gente adesso. Cosa le dai? Già aumentato poco la roba. Aumentato sì. Carlo, io ho quasi 10 ettari di terreno, non ci sono, però quasi. Ma a volte mi dicono, capita, sei andato in pensione, dice, e non ti coltivi niente nel terreno. Maga, lascia la sera in via. A parte che è lontano, ma qua, che è tutto bella, e non mi va di viaggiare tutti i giorni. E poi ha detto, non si può beccare più vicino. Ah, e se ce l'hai a Tuttubella devi fare un po' di chilometri. Ma lì già è una zona buona e fertile pure, se ci fai un piccolo orticello. Un piccolo, lì c'è anche l'acqua, c'è tutto. C'è cose irrigabili, tutto quanto. Mi sembra che lì sono 4-5 ettari, sono lì, sono 5 ettari, sono lì, in quella, nelle ortaggi. Cos'è? 10 ettari sono tanti, poi ne hai anche tipo pascolo, cosa così. No, c'è, allora, adesso non mi ricordo quanti sono di preciso a ortaggi. Poi c'è un po' c'è la vigna, sì, da un'altra parte. Poi c'è un oliveto, che è grandissimo lo stesso quello. In tutto saranno quasi 10 ettari. Ho capito. Ma anche la casa c'hai là? Sì, è tutto bello. Ho capito. Sono quegli appezzamenti standard magari che davano prima, dai. Mio padre era segnatario, dovete farlo. Era segnatario e ha riscattato tutto e adesso è tutto nostro. Ho capito. E lì ci sono dei terreni, Olivetti, vigneti. Da lì in poi verso Alghero, Santa Maria La Palma, tutta quella zona è piena di appezzamenti buoni. Sì, lì indubbiamente è una zona buona, Solo che ci devi arrivare lì, fra. Oh, ho lasciato tutto perdere, li ho lasciati, ci sono i miei nipoti, lì ci sono i figli di mio fratello, ho lasciato tutto, lì devi tutto, non sono tutto lungo. È un peccato perché, insomma, lì è bella quella zona, ne ho visto diversi terreni belli, non è lontano, da Sassari ci arrivi in un quarto d'ora se ti fidi. Sì, lo so, ma da qua, da dove sono io, non è tanto il cammino che devi fare, ma la benzina che spendi per andare e tornare tutti i giorni. Ho capito, sì. Vabbè, ma comunque già non è incolto, nel senso ci saranno tuoi nipoti che faranno qualcosa lì, no? L'oliveto, magari la vigna, immagino di sì. Penso di sì che lo stanno facendo. Tanto voi ormai a me non mi interessa niente, non ho detto di prendersi tutto, non mi frega niente. Gli altri, ci sono qualcun altro di sì, qualcuno di no, e loro fanno, poi quando sarà, se li vuole uno entra e si pianta, se ne ha voglia, se no lo lascio fare. E no, tu fai piantare a loro e tu passi a ritirare. No, non mi interessa. Lascio a loro, sono ragazzi, sono. Stanno cominciando loro. Io non è che devo andare a sfasciarmi la schiena. Il poco che mi rimane lì con la zappa, ma non è che per sogno, come ha detto Claudio, lascia perdere. No, a un certo punto non fa. Un conto è tirarsi l'erba lì davanti alla casa, ti tieni pulita una cosa, giusto? Nel piccolo va bene così, una manutenzione leggera, senza strafare, allora sì, ti tieni anche allenato, un po' di movimento fa sempre bene, ma fare cose in grande, quello ai giovani, hai ragione, largo ai giovani. Vai Antonè. Mi sembra che c'era un break poco fa su 10. Avanti, chi voleva entrare? Propagazione, no, buonasera anche a te, ma non ho capito chi sei. Sei segnale 1, doppio livello QRM. Mi sembra che sei quello che usa che parla con portatile di solito sempre. Qua a Sassari, adesso è sparito. Non so se era da fuori, l'ho sentito anch'io, aveva una specie di piccolo effetto eco, però poi adesso non sento più niente. Basilicata sta dicendo, avanti la Basilicata. Buonasera, Romeo Alfa da Maratea. Qua è la città di Sassari, operatore Carlo e poi c'è operatore Antonello, adesso rilancio Antonello per Maratea Basilicata. Ehi, salutoni, non ti dico ben sentito perché sei segnale quasi 2, però io ti ascolto. Avanti Franco, riprendi. Negativo, per me la Basilicata non la sento per niente, per me niente. Se lui mi sente lo saluto, però per me niente. Comunque Franco da sempre dalla Sardegna, provincia di Sassari, forza. Avanti, non so se mi ha sentito lui, boh? Penso di no perché non sta riprendendo. Avanti Carlo. Ha risposto. Chi ha risposto? Ha sentito Franco. Adesso sì, aspetta il telefono. Ciao Marco. Avanti ancora la Basilicata che ti hanno coperto. Prova a fare il passaggio di nuovo. Via, ciao Gianni da Maratea. Gianni, ti abbiamo sentito. Buona serata anche a te. Qua è la città di Sassari e l'amico di Sorso, Franco, che ti ha ascoltato e insomma penso che lo ascolti anche tu. Buona serata. Rilancio, buonasera Marsala, buonasera, qui è la città di Sassari, nord Sardegna, tu riprendi Antonè, entrano per i saluti, hello, Franco ci sei ancora? Sì, io ci sono, ma non lo sento però io non li ascolto. E a te ha risposto, ti sentiva comunque, poi è scomparso di segnale, ha salutato un altro da Marsala e poi non ho sentito più niente. Provate a battere la propagazione. Comunque ho sentito Marco poco fa, tutto fondo. Ciao Marco, comunque se l'ascolto. Ciao a tutti, ero in ascolto, lo sentivo segnale 5 ma è nel QRM, è radio 1, è troppo basso e poi io sto usando 2,5 watt, quindi non mi sentirebbe comunque, dai. Va bene, un saluto a tutti, io sono indaffarato qua e sto ascoltando. Antonello ha detto che rispondeva al telefono, si è sentato. Riprendi Carlo. Ciao Marco, buona serata. Sì, non l'ho sentito, forse ha parlato prima e mentre rispondeva agli altri, quindi non mi è sfuggito. Va bene, vai Franco. Capo, grazie perché ti ha rovinato un po' la radio. Via, ce la risentiamo, io rimango ancora un po' in ascolto qua e poi dovrò uscire. Se va bene ci sentiamo o stasera tardi se c'è qualcuno oppure domani mattina. Ciao a tutti e buona serata. Ciao Marco, Franco e Antonello. Ehi capo, dai. Ciao, allora stai chiudendo. Ci sentiamo nelle prossimine. Ciao Franco e Marco. Ciao. noi denunciamo come sì. C'è qualcuno qua? Il problema è che tutti fuggiti siete.